as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti. Oggi pomeriggio ad Il Pane e Rose affronteremo un'altra volta la questione dello scandalo della logistica di Mondo Convenienza. In passato ne abbiamo parlato. Oggi ne parliamo con il sindaco Giampiero Falzone, perché un po' di tempo fa ho letto una notizia sui giornali che il comune di Calderara si è costituito parte civile nel processo contro 5 esponenti della logistica di Mondo Convenienza, e questo mi ha lasciato molto, diciamo, sono stato molto contento, perché non accade spesso che i comuni entrino in processi penali per quanto riguarda il lavoro. In alcuni casi spesso difendono il datore di lavoro più che stare dalla parte dei lavoratori. Questo fa onore a Giampiero Falzone, che sul lavoro, bisogna dire la verità, essendo anche lui un avvocato del lavoro, si è sempre prodigato. Ricordiamo a tutti la vicenda. Stiamo parlando di fatti commessi dal 2017 al 2018, denunciati da una ventina di facchini circa nel 2020. La procura ha iniziato a indagare, ha indagato una serie di persone contestando loro una serie di violazioni riguardanti questioni di lavoro, insomma, retribuzioni difformi, non venivano pagate rispetto ai contratti, c'erano condizioni di lavoro veramente pesanti, turni di lavoro senza fine, violazioni della sicurezza sul lavoro, erano obbligati a sopportare carichi pesanti senza strumenti meccanici, dove c'era l'obbligo di usare strumenti meccanici, mancavano i veicoli che erano carenti, c'erano soprattutto dei metodi degradanti e umilianti di controllo a distanza per costringere i lavoratori, venivano minacciati se non consegnavano tutti i pacchi entro la giornata. Queste persone, veramente, se vi ricordate, in cui nel 2020 ci furono delle manifestazioni anche a Mondo Convenienza in cui si ribellarono questi facchini. Ne parliamo di questa vicenda con Giampiero Falzone, soprattutto il fatto che il comune di Calderara si è costituito parte civile. L'ho incontrato in un torneo di paddle, il vostro speaker operaio gioca anche a paddle, sempre per beneficenza. Abbiamo raccolto un sacco di soldi a Calderara di Reno per gli alluvionati, questo torneo di paddle, e l'ho incontrato e ne ho approfittato per fargli un'intervista. Adesso ci ascoltiamo un gruppo che a lui piace tantissimo, sarà contento di ascoltare la puntata, Rumba de Bodas, che lui conosce personalmente. Andate a vedere sulla sua pagina Facebook i Rumba de Bodas, che rapporti ci sono con Giampiero Falzone, e poi sentiamo l'intervista con lui. A dopo. Follow leather, makes me lie like a feather. Buff. buffalo leather makes me la like a feather. It ain't easy to explain, makes it out of name. Just go fuck. Yeah, hands up to the sky, I shine a light on you. Without that, I'd be boring you. Ooh, ooh. It's a perfect symmetry, that's a canvas rain. Looking, breaking, funky. Allora, siamo qui al torneo di paddle in beneficenza per gli alluvionati della Romagna, alla settimana calderarese, bellissima iniziativa. Abbiamo qui con noi, che giocherà, spero di batterti se capiremo se... Sicuramente accadrà così. Ok, Gian Piero Falzone, sindaco di Calderara. Allora, era un po' che ti volevo intervistare, perché mi ha molto colpito il fatto della questione Mondo Convenienza, che il comune di Calderara ha deciso di essere parte civile in quello che è successo. Ora racconta un po', perché noi ci occupiamo di Mondo Convenienza, ne abbiamo già parlato in passato dell'avvertenza, ma molto tempo fa. Volevamo sapere le motivazioni, perché avete preso questa decisione e insomma il coinvolgimento del comune in questo, e anche per ricordare a tutti i nostri ascoltatori la vicenda. Sì, no, brevemente, sicuramente chi ci ascolta, se ne avete parlato spesso, conoscerà la vicenda, ma è opportuno, come dire, fare una breve sintesi per quello che rappresenta. Si tratta di un processo penale a carico di 5 persone dei vertici di Mondo Convenienza, accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel magazzino di Mondo Convenienza, per l'appunto, di Calderara Tirreno. E questa triste vicenda ha visto da parte del pubblico ministero il rinvio a giudizio appunto di 5 persone su 21 inizialmente indagata, nell'ambito appunto di un'indagine che era partita da denuncia di alcuni lavoratori per i fatti avvenuti nel capannone di Calderara tra il 2017 e 2018. Si parla, ripeto, di sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita, caporalato, dei reati veramente brutti davanti ai quali noi come amministrazione comunale ci siamo sentiti in dovere di costituirci parte civile. Abbiamo dato incarico all'avvocato Salvo Tesoriero dello studio Gamberini proprio con l'obiettivo e il compito di costituire l'ente quale parte offesa nel procedimento. Alla luce di diverse considerazioni, naturalmente la gravità dei reati di cui dicevo prima, che dobbiamo veramente respingere e ripudiare. Due, anche per una considerazione più generale che va oltre la vicenda specifica, nel senso che giustamente spesso sentiamo nel dibattito nazionale parlare di tutela del lavoro. È un tema oggi sempre più fondamentale, come sono solito dire, sia per quanto riguarda e attiene strettamente i diritti dei lavoratori e di un giusto salario, sia per quanto concerne il diritto al lavoro. Davanti al caso appunto di Mondo Convenienza, alla luce un po' di queste considerazioni, per noi amministrazione comunale è stato, lo definisco così, ecco, un dovere etico, politico e istituzionale provare la costituzione di parte civile del comune. Non sarà certo facile, non ci sono tanti precedenti, ma io ho ritenuto anche personalmente che leggere l'accostamento della città che rappresento, l'accostamento di Calderara di Reno, quale territorio di consumazione di reati, quale appunto caporalato e sfruttamento del lavoro, è qualcosa che non poteva lasciarci inerti. E intendiamo quindi con questo gesto anche simbolico chiedere giustizia per i lavoratori, soprattutto affinché casi come questo non si ripetano più, e per ribadire anche oltre alle semplici parole che per il territorio il diritto del lavoro e il diritto al lavoro sono concetti e valori sui quali non si scherza e non si può agire con leggerezza. Allora, quello che mi ha colpito di quello che tu hai detto è proprio la questione etica, politica, è una questione anche di giustizia, no? E anche il fatto che non ci sono tanti casi in cui i comuni insomma fanno questa cosa che avete fatto voi, perché parliamoci chiaro, se tutti i comuni facessero quello che voi avete fatto in Italia, tutti i comuni sarebbero in causa, perché abbiamo migliaia, no, di comportamenti scorretti che sfiorano soprattutto il campo della logistica, qua di quello stiamo parlando, cioè vanno verso il penale, ce ne sono a centinaia. Purtroppo spesso noi notiamo che in realtà sono più perseguitati chi combatte queste cose all'interno dei luoghi di lavoro che chi commette. Abbiamo casi di persone che sono morte nel campo della logistica, ricordiamo quei due delegati sia dei Sicobas che dell'USB, che sono già due, sono morti perché facevano un picchetto per denunciare quello che accade nella logistica. E queste persone, alla fine, che hanno ucciso queste persone, non è che c'è stata questa leva di scudi per mandare queste persone in galera, anzi spesso chi picchetta viene colpito legalmente, proprio perché conosciamo benissimo il decreto sicurezza della Lega, è quello che prevede in caso uno faccia dei picchetti. Però la domanda è, che ti faccio anche, davanti a casi in cui l'illegalità è palese, è estrema, è agli occhi, davanti agli occhi di tutti, cioè oltre a, cioè, se non abbiamo delle persone come te che comunque fanno una battaglia giuridica, le lotte sono per forza, i lavoratori devono comunque reagire con lotte dure, perché davanti a queste cose qui secondo me non è giusto penalizzare i lavoratori. Sono assolutamente d'accordo, faccio una considerazione, perché naturalmente il tema della logistica è quello, come dire, nello specifico ma anche in generale, quello che merita molta molta attenzione per le condizioni di lavoro di tanti lavoratori e lavoratrici. Non che in altri settori i diritti acquisiti dai lavoratori non siano messi in discussione, ma in quello della logistica lo abbiamo visto sui casi che citavi tu, è veramente è una giungla, ecco, la definisco così. Non ci sono precedenti diffusi di costituzione di parte civile per queste tematiche, e anche questo, come dire, può essere una sorta di buona pratica che sia di esempio anche per altri. Ecco, noi assistiamo spesso in Italia, nel nostro paese, alla costituzione di parte civile degli enti locali per quanto riguarda le mafie, infiltrazioni mafiose, reati ambientali. Sul diritto del lavoro sono veramente pochi i casi come quello che sta caratterizzando il nostro comune. Quindi io penso che possa essere anche di esempio, e non dimentichiamoci però che questo territorio su queste lotte ha tanto da dire anche con orgoglio. Mi riferisco al territorio metropolitano, alla carta che come dire, è lanciata dal sindaco Lepore e condivisa da tante amministrazioni, tra cui la mia, sulla logistica etica. So anche che all'udienza Mondo Convenienza, la prima udienza che si è tenuta, se non erro, il 23 maggio scorso, quindi è recente, oltre al comune di Calderara si è costituita anche la città metropolitana, e anche questo è un precedente da sottolineare, e insieme a città metropolitana e appunto comune di Calderara si è costituita parte civile anche la CGIL. Ecco, questo secondo me rappresenta quello che occorre fare in questo settore e che, ripeto, in questa regione in generale si sta facendo. Il patto per il lavoro e il clima di fatto testimonia questo, ecco, ognuno naturalmente agisce per le proprie competenze e autonomie, ma insieme mondo istituzionale e mondo sindacale convergono nell'affermare la giustezza e la necessità di un lavoro di qualità, soprattutto, che rispetti i diritti dei lavoratori. Io sono cresciuto facendo l'avvocato in diritto del lavoro, e come dire, un po' l'ABC è sempre partito dallo statuto dei lavoratori. Ecco, quello che è scritto in quello statuto non può essere solo carta, ma quando noi sappiamo di casi come quello di Mondo Convenienza, secondo me anche a livello di istituzioni dobbiamo battere un pugno forte per dire che i diritti conquistati anche con tante lotte non possono essere messi sotto i piedi nell'interesse del guadagno e del ricavo. Allora, d'accordissimo, le cose che hai detto sono condivisibili. La CGIL che sia costituita, insomma, parte civile è un atto dovuto. Il fatto che l'abbia fatto il Comune di Calderara non era così scontato, ecco perché l'abbiamo intervistato. L'unica cosa che ti volevo dire è sulla logistica etica. Noi abbiamo già fatto delle puntate, abbiamo già discusso anche con vari sindacalisti. Ora, non tutti credono che questo possa portare veramente dei risultati. Non c'è molto entusiasmo tra i lavoratori della logistica. Ecco perché io credo che le parole sono giuste, i fatti, come costituirsi parte civile, sono fatti, cioè non sono semplici parole, sono semplici programmi. Se si ottengono dei risultati, i lavoratori lo vedono e hanno veramente dei benefici, potranno credere anche in questa logistica etica. Ma se poi le condizioni, così mi hanno detto a me, io quando li ho intervistati mi hanno detto: guarda che sì, spesso noi sentiamo tante belle parole, però nei fatti le nostre condizioni non migliorano ma peggiorano, e quando migliorano in realtà sono le lotte che ci hanno permesso di migliorare più che le belle parole dei politici. Ci sai molto benissimo, non solo il sindacato è in crisi, ma anche la politica, il sindacato confederale in certo senso è in crisi, ma anche la politica. Io spero che invece che i fatti ci siano e che i lavoratori vedano praticamente, cioè nel senso che se questo fatto di Mondo Convenienza porterà gli altri a non comportarsi nella stessa maniera, i lavoratori vedranno questo, riusciranno a capire questo, io penso che sia un fatto importante. Guarda, sono d'accordo, e come dire, oltre che per i motivi che dicevo prima, noi abbiamo scelto di costituirci parte civile anche per dare fiducia ai lavoratori, proprio sulle considerazioni che facevi tu, perché se noi rimaniamo solo nell'alveo delle belle parole, dei documenti, delle carte, come si suol dire, naturalmente il lavoratore che invece vive quotidianamente una situazione difforme rispetto a quella che giustamente i documenti e i protocolli hanno delineato, si sente sfiduciato anche e non vede nelle istituzioni un punto di riferimento su cui contare. La costituzione di parte civile vuole dare anche questo significato. Io penso che la carta sulla logistica etica sia molto importante per quello che scrive e per quello che prevede. Naturalmente, davanti a qualsiasi previsione, o c'è un monitoraggio attento delle singole situazioni o rimane naturalmente carta. Ecco, io penso che azioni come questa possono invece dare anche gamba a quelle parole, a quelle carte, perché effettivamente se non si fa un approccio così determinato che faccia seguire, come si suol dire, alle parole i fatti, si crea anche un senso di sfiducia e anche quasi di rassegnazione, nel senso che il lavoratore fa anche una considerazione banale ma forse spesso pragmatica del tipo: sì, le parole sono quelle, ma io nei fatti lavoro in un altro modo, non ho alternative, quindi mi adeguo a lavorare in quel modo, che anche se non è un modo umano e di rispetto dei diritti. Ecco, noi dobbiamo evitare e contribuire nel nostro piccolo a far sì che questa rassegnazione scompaia dai lavoratori, i quali invece devono sapere che nelle istituzioni locali, quelle di primo livello, che sono vicine e facilmente raggiungibili, possono vedere una spalla forte per far sì che appunto alle parole seguano i fatti. Questo è il caso, ripeto, della Costituzione di parte civile, questo è il caso di tanti anche tavoli di salvaguardia al quale abbiamo partecipato come comune interessato e città metropolitana, cercando sempre di salvaguardare l'occupazione, salvaguardare la produzione nel rispetto dei diritti dei lavoratori. No, ti ringrazio Giampier, alla prossima. Grazie. Vinca il migliore. Cioè tu. Shine. Abbiamo ascoltato sempre Rumba de Bodas, il gruppo preferito di Giampiero Falzoni, il sindaco di Calderara di Reno, che abbiamo ascoltato in questa intervista, che ci ha raccontato come mai il comune di Calderara si è costituito parte civile nel processo Mondo Convenienza. Gli fa onore quello che lui ha raccontato, ha spiegato perfettamente. Io spero che questo processo non finisca come tanti processi in cui purtroppo i criminali padroni vengono assolti in formula piena. Abbiamo avuto dei casi allucinanti in Italia in cui alla fine i lavoratori non hanno avuto giustizia. Spero che non sia questo il caso. Abbiamo visto come l'atto di costituzione di parte civile sia stato anche seguito poi da quello del comune di Bologna e della CGL, che sia subito costituito parte civile in questo caso. Speriamo che la lotta dei lavoratori di convenienza sia valsa a qualcosa, perché i lavoratori hanno lottato, hanno scioperato e hanno veramente fatto una forte, forte mobilitazione che ha portato poi anche al processo. Ecco, io ho voluto raccontare questa storia oggi. Speriamo che più comuni si comportino come il comune di Calderara. Vi dico, il Torino di Padova purtroppo ha visto che io non mi sono qualificato per gli ottavi di finale, invece il nostro sindaco è arrivato secondo. Non ha vinto, ma è molto forte, non solo nel diritto del lavoro, ma anche a padre. Ok, alla prossima puntata, ciao. Orgoglioso de estar. Orgoglioso.